per poterti dimenticare. Ho rubato la salsedine al mare, lui c'è rimasto tanto male, ora si vuole solo vendicare. Io gli parlo ma lui no, non risponde, io lo cerco ma lui si nasconde nell'oscuro delle acque profonde, poi si inarca in migliaia di onde. Per poterti dimenticare ho dovuto perfino anche scrostare la parete che mi fa ricordare quando ti schiacciavo al muro per poterti baciare. Ho ridotto in coriandoli l'agenda affinché anche il telefono si arrenda. Ho cambiato amicizia o altra gente, ho cambiato quasi tutto e invece niente. Dove sei il mio perduto amore che non riesco a dimenticare e non vuoi farmi vivere più? Vorrei tanto tra migliaia di cose ritrovarti come un ciuffo di rose tra le dune del deserto che c'è in me. Per poterti dimenticare ho ricominciato pure a fumare, ogni ricciolo che ho in testa è un tormento, l'orologio batte il tempo ma è lento. Per poterti dimenticare mi dovrei quantomeno tuffare in una piscina vuota e senza fondo e arrivare fino al centro del mondo. Per sedermi su una roccia rovente, per bruciare i ricordi nella mente, poi riemergere alla vetta più alta, è un aereo che mi asfalta. Dove sei mio perduto amore, che non riesco a dimenticare, e non vuoi farmi vivere più? Vorrei tanto tra migliaia di cose, ritrovarti come un ciuffo di rose, tra le dune del deserto. E c'è in me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fuma, fuma, fuma, che il dolore si consuma. Fuma, fuma, fuma, che il ricordo si allontana. Balla, balla, balla, che va bene pure quella. Balla, balla, balla, una balla dietro l'altra. Bevi, bevi, bevi, fatti la fontana di tre. Bevi, bevi, bevi, che il tuo cuore non la beve. Senti, senti, senti quanti strani movimenti fa il tuo cuore quando pensi a lei. Senti! Torna a me mio perduto amore, senza te non riesco ad amare, io so solo dirtelo così. Nessuno al mondo mi può capire se non tu che mi fai morire al solo pensiero che non sei più con me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-